Che stiamo a fare qua? Una sera stiamo a fumare una sigaretta. Scendi dalla macchina. Pure tu, forza. Che era, una sigaretta o una canna? Una sigaretta, se vuole gliela faccio vedere. Io sento puzza di fumo. Sa, sono fatte prima. Che, cioè, non ve le fate le canne voi, no? Sentite, è meglio se la cacciate voi la roba, perché se la troviamo noi è peggio. Ma guardi che non c'è niente, no? Dammi i documenti. Vai, forza pure tu, dai. Dai, me. Qua c'è scritto che sei geometra. E ti chiami Stefano Cucchi. Sì. Allora, Cucchi, prima che cosa stavi passando l'amico tuo? Prima che niente. Ti ho passato qualche cosa prima? No, ho andato una sigaretta. È la macchina tua questa? Sì. Controllala. Ma esce perquisite? Sì. C'è qualcosa in contrario? Non c'è niente in contrario, ma stavo a fare una chiacchiera con un amico mio in macchina. Senti, svuota le tasche e metti tutto sul tettuccio. Sbrigati, dai. Bene, a me, pure tu, forza. Dai, tutto. La macchina tua qual è? Quella là. Larga ste gambe. Sì, un attimo, vedi là sopra. Poi ti ho detto che non c'ho niente. Ma vediamo. Ma vediamo. Oh, e qua che c'è di bello? Due chiacchiere tra amici, eh? E chi è voi? Ah, tu sei? Sa succede qua? Sti due c'hanno un po' di roba. Ma che ci fate qua? Abbiamo staccato quando mezz'ora fa. La vediamo la mano lo stesso. Sta diventando la festa dei guardi. Che hai detto? No, niente. Girati. Che fai, lo spiritoso? Al posto tuo lo spiritoso non lo farei. Se fossi pieno di fumo, con 5 carabinieri innanzi, io vorrei stare calmo e zitto. Che dici tu? La macchina è pulita. Controlla anche la sua. Quindi tu sei lo spacciatore e lui il cliente? Ma io sono geometra, non sono spacciatore. Ah sì, ma è il secondo lavoro. No, non scherziamo, io sono un amico che mi ha parlato a macchina. Se... zitto, ti devi star zitto. Blind man dreams, blind man dreams, blind man dreams, blind man dreams, blind man dreams, blind man dreams, blind man dreams. I roll a raw dream, another green screen, looking through a digital eye. Paper mind, states, minds, take, shut it off, inhale this analog light. Lie beneath this water and mortar standing idly by. This little screen that they sought ya and bought ya, quarterly slaughter is nigh. Heavenly, this breath of consumption, the devil, he knows how to crack. Sending me down two dimensions, levels where I don't know his text. Back to back, I fight the green fight for 20 tokes of smoke and murk. My mind might be made or change or alter. This micro world has been a blur. Blind man dreams, tiptoe up behind you. What you need, everything you wanted. Baked on borrowed time, digital divine. The digital eye, defend the senses, shift the fences, flip the switch and savor the sights. and tip back. I fight the green, fight for 20 tokes of smoke and murk. My mind might be made or changed or altered. This micro world has been a blur. Night and dreams tiptoe up behind you. What you need, everything you wanted. Make time for more time, digital divine. Things on what they seem. One piece sold a dream. One piece sold a dream. Things on what they seem. Things on what they seem. One piece sold a dream. One piece sold a dream. Questa è Mina Rose, Blind Man Dreams, e prima abbiamo ascoltato l'audio di una parte del film, appunto, Sulla mia pelle, gli ultimi sette giorni di Stefano Cucchi. In particolare era una delle parti iniziali del film dove avviene il fermo da parte dei carabinieri a Stefano e a un suo amico. Vengono trovati in possesso di un po' di fumo e un po' di cocaina, e insomma inizia l'inferno che porterà Stefano, appunto, in sette giorni a morire e attraversare, appunto, tribunali, carcere, ospedale, e non riuscire mai in questi giorni ad incontrare né quello che doveva essere il suo avvocato né i suoi genitori, se non, appunto, in dei frangenti, appunto, quando va al processo, senza riuscire, appunto, ad incontrare nessuno, e appunto finendo in questa maniera la sua vita. Una storia che, appunto, ha segnato in maniera forte la città di Roma e non solo, una storia, appunto, una ferita che non si rimargina, e una storia che va avanti, come poi vedremo tra un quarto d'ora sentendo in diretta, appunto, un compagno di alter ego che ci racconterà, appunto, meglio come sta andando il processo Cucchi. Ma faccio un piccolo ricapitolo di come è andata poi la storia di questo film, perché dopo l'uscita e la presentazione a Venezia di un film, appunto, che tra l'altro, appunto, oltre a essere presente nelle sale, poche sale, però insomma è presente al cinema, è anche visibile su Netflix, e quindi, appunto, si è creato da subito dopo la proiezione a Venezia, e quindi dopo la grande attenzione che ha avuto e dopo la voglia che c'è stata di tante realtà sociali in Italia di costruire dei momenti di proiezione gratuita e libera di questo film, sia, appunto, per la voglia di diffonderlo, ma anche per la possibilità che si sarebbe potuta, che si sono immaginati in tanti e in tante, che poi effettivamente così è stata, di costruire dei momenti di vera e propria memoria collettiva, di vera solidarietà poi alla famiglia Cucchi, di denuncia di quella che è la realtà in Italia, e non solo degli abusi in divisa, degli omicidi di Stato. Questa grande mobilitazione spontanea che si è data ha visto, appunto, decine e decine di realtà sociali, tra collettivi universitari, centri sociali, associazioni, che hanno deciso di lanciare proiezioni pubbliche che hanno visto, appunto, anche eventi sui social network, una diffusione su vari canali, diffusione che, appunto, ha visto però dopo qualche giorno la censura da parte di questi social network, insieme, appunto, alla produzione di questo film, che hanno eliminato, appunto, questi eventi pubblici che pubblicizzavano le proiezioni, cercando, appunto, di mettere in qualche modo i bastoni fra le ruote a quello che era un meccanismo che si era innescato particolarmente forte, appunto, di voglia di starci e di esserci insieme per essere vicini a questa questione, a Ilaria Cucchi, alla sua battaglia, e non solo, insomma, più in generale, di dire la propria su uno stato di cose dove appunto si sa che poi lo Stato rimane sempre impunito di fronte ai vari omicidi, e non solo, che quotidianamente porta avanti. E quindi questo film è stato sicuramente preso come una risposta collettiva possibile a quello che è, appunto, uno stato di cose dove non si vede molto la possibilità di opporsi in maniera forte e di invertire una tendenza sempre più grave e questo sicuramente va di pari passo al fatto che la risposta al film è stata poi appunto l'indignazione delle forze dell'ordine e dello stesso primo ministro Matteo Salvini, che insomma già da anni si fa baluardo di insultare la famiglia Cucchi, la famiglia Aldrovandi, e di appunto stare dalla parte dello Stato, dalla parte delle forze dell'ordine, e come sappiamo si autoassolvono sempre in queste situazioni. Ora vi lascio a un altro estratto audio del film. Cucchi, è arrivato il 118. Devo andare a casa. Come si chiama? Cucchi. De nome, come fa di nome? Stefano. Stefano, che te senti? Niente, sto bene, grazie. Ho capito, ci hanno chiamato, un motivo c'è stato. Dimmi che è successo. È tutto a posto. Senti, soffri di qualche patologia? Prendi i farmaci? No, arrivederci. Senti, ma così però è difficile per me. A me lo devo vedere. Che vuoi te? Quanto sono bello. Oh, che fa? Mi inciuchetti? Come faccio a aiutarti se fai così, eh? Infatti è meglio aiuta. È tutto a posto, l'ho detto. Senti, Ste, fammi una cosa. Non se andiamo da sto posto. Vieni con me all'ospedale. Così ci facciamo due chiacchiere in privato, io e te, tranquilli, eh? Ti ringrazio della proposta. Ti pare fare un viaggio a foto. Allora perché ti nascondi sotto quella coperta? Di che c'hai paura? E basta, fammi dormire, dai. C'è paura di qualcuno? Basta, vattene! Basta, io più te così. Se ci ripensi comunque richiamaci, non ti fa problemi. Mamma. Prima cicca me l'accendo all'alba, faccio due tiri sa di Jugoslavia, esco di casa che ho bisogno d'aria, e cosa vuoi che ti dica? Vengo dal niente, voglio tutto. Ultimo tiro e poi ti giuro che la butto. Milano sottomarino, mirano sotto al mirino e sparano bang. Qui non ci sono più squadre, figli della pizza, lievito madre. Se avevo i soldi mica la facevo una vita da cani randagi. Siamo terroni che mangiano la cotoletta, sì. Quanta saudaci, tanto autori in lutto, natura morta forse risorge. Antonello venditi, manca una tina, nessuno se ne accorge. Giambellino, scendo sotto casa, faccio colazione con il ciambellino, senza avere i soldi del tuo papparino, tiro e faccio i fumetti come Papperino. Per Benisse ci guardano storto perché abbiamo facce tipo Sarajevo. Qualcuno si sta armando, ma armando chi? Boh, Sarajevo, musica pop, te la spiego, me lo lascia, lui va impara. E voi che ci cascate, mia gara. Ti giuro che la butto. La prima cicca me l'accendo all'alba. Faccio due tiri sa di Jugoslavia. Esco di casa che ho bisogno d'aria. E cosa vuoi che ti dica? Karma, karma, dopo la tempesta. Solo noi sappiamo quanto abbiamo corso. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo sopra la maglietta che paga lo sponsor. Fuori dai confini americani, tentativi per entrare vani. Siamo messi che abbaiamo, insomma siamo messicani. Ti do un OCB così ti calmi e dopo non mi uccidi. Vuoi fare Ho Chi Minh, sì, ma Ho Chi Minh che dura 10.000. Le due parole che ho sentito più spesso qui. Sigaret, ascendi. Vengo dal niente, voglio. l'ultimo tiro e poi ti giuro che l'ultimo tiro e poi ti giuro che la butto. Questi erano i Coma Cose e prima invece abbiamo ascoltato l'audio di un altro appunto estratto dal film Sulla mia pelle. In particolare era il momento in cui Stefano viene visitato in carcere da una prima ambulanza che chiama e appunto si vede durante tutto il film appunto come lui appunto non voglia raccontare che cosa è accaduto per paura delle ripercussioni che i carabinieri del suo quartiere potevano mettere in campo nei suoi confronti, appunto un livello di ricatto che vivono migliaia e migliaia di persone, in particolare nelle periferie di questa della nostra città e non solo. Gli ultimi sicuramente si sentono quelli che vivono appunto i quartieri, quelli che si trovano anche magari a vivere di lavori non completamente legali, insomma vivono in una quotidiana paura, in un quotidiano ricatto di quello che sono poi le forze dell'ordine per strada e di come decidono di utilizzare il proprio potere. Ma appunto continueremo a parlarne poi rispetto alla questione giudiziaria, ai processi che continuano sul caso Cucchi e ascolteremo appunto anche altri estratti del film durante questa mattinata. Appunto continuo ad andare avanti in quello che è stato il percorso che ha portato migliaia di persone a vedere collettivamente questo film nelle piazze, negli spazi occupati d'Italia. Infatti appunto dopo appunto questo primo tentativo di bloccare queste iniziative con appunto la richiesta da parte della produzione di non proiettare violando il copyright questo film, insomma, cosa che ci è sembrata abbastanza fuori luogo nel momento in cui appunto non si tratta di un film ma si tratta di una testimonianza di quello che è un caso che riguarda tutti e tutte. Infatti giustamente in molti hanno detto anche che è sulla nostra pelle questo film e questa storia di Stefano e appunto si è decisa per fortuna in tutta Italia di rispondere in maniera forte a quella che era stato il tentativo di impedire queste proiezioni, confermandole e portandole insomma anche a un livello di contraddizione, discutendo di quello che era in questo caso la produzione che stava dietro a questo film, anche gli introiti che queste produzioni hanno annualmente e quindi anche il livello ridicolo di questo discorso. Comunque da questo punto di vista le proiezioni appunto sono avvenute in tante città, abbiamo visto anche delle polemiche abbastanza sterili da parte di attori e anche dello stesso regista sulla qualità di queste proiezioni collettive, qualità che tra l'altro ad esempio alla proiezione di Roma dove ero presente comunque non era per niente scarsa, contando l'evento totalmente autofinanziato e organizzato dal basso. Però detto questo purtroppo ci siamo ritrovati con un dibattito appunto abbastanza ridicolo sulla qualità delle proiezioni, quando al contrario invece tante persone hanno riportato a voce nelle interviste uscite sugli articoli di giornale che raccontavano di queste proiezioni, ad esempio quella alla Sapienza, comunque l'importanza che ha avuto questo momento per tante persone che l'hanno attraversato. Quindi insomma in questi giorni tra l'altro continuano altre proiezioni pubbliche, anche a Roma ce ne saranno delle altre, mi sembra mi accennavano il 22 a Casa d'Alba 2 e ce ne saranno sicuramente anche delle altre nelle prossime settimane, quindi l'invito sicuramente a partecipare invece a queste proiezioni collettive come momenti anche di denuncia, oltre insomma l'importanza che ha avuto questa opera, insomma questo film, di denuncia che veda insomma anche la forza delle persone, delle decine, centinaia, migliaia di persone che si sono riuscite a raccogliere attorno a questa storia molto triste, però che insomma dà anche tanta rabbia e tanta voglia di lottare in un momento in cui sicuramente ce n'è tanto bisogno. Ora vi lascio di nuovo a un estratto del film, poi sentiamo un altro po' di musica e saremo in collegamento con Alter Ego. Ci sto attento perché faccio il pugilato. Che fai il pugilato? Girati, no? Ma conviene che lo lasci perdere il pugilato, perché non è roba per te. Ma fini che ti fa male, guarda come ti sei ridotto. Chi ti ha detto che sti lividi mi sono fatti in palestra? Io non ho detto. Sono regalo dei carabinieri sti lividi. Queste sono accuse gravi. Come botte mi hanno dato. E io che ne so che mi stai a dire la verità. Ecco qua la verità. Ma che significa? Questo può essere stato chiunque. E invece no, sono stati loro. Sono stati loro, i carabinieri mi hanno gonfiato delle botte. Sono andato lungo per terra, mi hanno riempito dei carci, manco le manette mi hanno levato. Ma se ci lo crede bene, se non fa come te pare. Adesso datta una carmata e metto la sete. Oh. A sete. C'ho un ragazzo, aspetta un attimo. Come ti chiami? Stefano Cucchi. Si chiama Cucchi Stefano. Ti volevo chiedere, non è che per caso abbiamo un certificato medico? Che questo sta tutto visto? Ah, ci sta? Perfetto. No, che se no qui va a finire che ce l'ho da mezzo io. Prossimo. My mind's inclined to be inclined to detach and write a rhyme to put you on the map. Now you know where you at. You in the place where the goddess be at. The cosmos realign, react. Time travel collapse. We speak a solid pantomime, the fact. Plus, who gon' put you on to that? Let the song relax till you confront it with the more abstract. Preserve self like an artifact. Put your heart in that. Remember back when Umi said, let your light shine from a soul state of mind. Wanna search to find my higher self, had to learn to climb. Signs in the words of those old and wise said, each relationship is like a magnifying glass inside. Told my beloved, please close your eyes. I guarantee you see a portrait divine. I guarantee you see your portrait if you listen. You now attuned to the sun and the moon. The universal planetary kaboom. Keep it locked in your soul. Find yourself. Find yourself. Find yourself. Find yourself. You now attuned to the sun and the moon. The universal planetary kaboom. Keep it locked in your soul. Find yourself. Find yourself. Find yourself. Find yourself. Yo, they say beauty's in the eye of the beholder. I say beauty's in the lives of those that behold controller. Videos, episodes, covers of older. Plastic surgeons trying to meet that monthly quota. A culture designed to make us feel less than. So we spin to look like the poster. The latest guest of Oprah. A photoshopped image of posers. And even they trying to keep up with the Joneses. To see yourself out of focus. Know this. Your beauty defies measure in divine essence. Your presence, the most high's expression. Each thought manifests your outer world in a reflection. A blessing, the answer and the question. Stepping on your path, hold fast against outside perceptions. When thoughts look within for directions. Close your eyes for a second, your mind for acceptance. You now attuned to the sun and the moon. The universal planetary kaboom. Keep it locked in your soul. Find yourself. Find yourself. Find yourself. Find yourself. You now attuned to the sun and the moon. The universal planetary kaboom. Keep it locked in your soul. Find yourself. Find yourself. Find yourself. Find yourself. Say what? You are the dopest cat you've ever met. Hey, the coolest face that you've ever seen. The flyest voice that you've ever heard. Perfect divine being, not me. You are the dopest cat you've ever met. Hey, the coolest face that you've ever seen. The flyest voice that you've ever heard. Perfect divine being, not me. Flash, flash, Flashback 88, caught my first tape, third grade. Young girl banging Roxy and Shantae around my way. Claude McKay, disarray. Langston's a dark hues, get bruised, stored away. Hey, caught in cage, fought in the maze, gave up. And now I got dreams of being live on stage. What? Turn the volume up. Me and my cousin doing the WAP, dreaming about the salt and pepper haircut. Speakers bump light as a rock pumps the rhythm of my next double dutch jump. What you want at once? Pacola Bree lover. We dreamed of ourselves new when Latifah showed us what a queen was. Went from invisible to seen on the smooth tip sweet tea to follow Moni in the middle on the scene. Saw them, saw myself out the rock mics when I'm older. Pick up the pen and like internet. For Latifah, for Light, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B, for Jean Grey, Evie, Nikki D, Salt and Pepper, even me, a Pony B, for Missy, for Kim, and Foxy, for Rod Digger, Rage, Left Eye, for Yo-Yo, Paula Perry, Nonchalant, the Brat, for Jane Doe, Rage, Mystic Force, Foxy B, for those never seen, or the search for female MCs, the microphone fiends. Stomped in the 90s after school, you could find me in the backyard, begging for a beatbox, rhyming, you and ITY, and Heather B, Blues, frame the news of the death of Phyllis. Time and I rap to keep from crying. Taking mine, now I'm the boss. Recipe for a show. This ain't no girls in the cypher, so I rock solo. Living on the black street, ill nana get me home though. I rap along to every song, it ain't no playing with my yo-yo. Check how I hit every note though. Even sung along the patois, like in the joint she did with Patra. I'm on a romantic call. Blank page calling, I feel inside the crowd. Yes, you're nonchalantly in the trance at 5 o'clock in the morning. Sported the Kim hardcore wig, then came Lauren. She showed me the beauty in the natural cut, amplify my rage, growing out my ass. This is for Latifah, for Light, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B, for Jean Grey, Evie, Nikki D, Salt and Pepper, even me, a Pony B, for Missy, for Kim, and Foxy, for Rod Digger, Rage, Left Eye, for Yo-Yo, Paula Perry, Nonchalant, the Brat, for Jane Doe, Rage, Mystic Force, Foxy D, for those never seen, or the search for female MCs, the microphone fiends. Millennium came of age, while things stayed the same, media forms changed, new name from what to Jean Grey, we bootleg the bootleg, Facebook or MySpace, put away cassette, VHS tapes and vinyl crates, fast forward album release dates, our power lies in what we buy, how we're objectified, in these days, tell me what's the plight of a female MC's fate, or what's the worth of a woman's story to a DJ, downloading every one and none, my hero seemingly gone, searching found Laura Hill unplugged, guess I lost one, some come and go, self-labeled bitch and hoe, inherited a discourse, I turn off the radio, I can't relate, nor can I hate, for the ways we negotiate the sexist spaces that we navigate, I stay reppin', haunted by the ghost of hip-hop, crescent it seems. Fantasy is what people want, reality is what they need. This is for Latifah, for Light, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B. 11.04, siete gli ascolto di 87.9 di Radio Onda Rossa. Dalle 10.30 abbiamo iniziato un approfondimento sul film Sulla mia pelle, gli ultimi 7 giorni di Stefano Cucchi, e l'ultimo audio che avete ascoltato dal film appunto riguardava tra i vari travagli che Stefano ha dovuto affrontare in quei giorni, tra i vari istituti detentivi che ha incontrato, insomma, e tra la tanta indifferenza che ha incontrato, insomma, in tutte queste giornate, e quindi nel film, insomma, c'ha un grande ruolo anche mostrare, insomma, come funziona poi l'apparato giudiziario e sanitario che poi lui incontra in queste giornate, insomma, apparato giudiziario e sanitario che poi è entrato dentro un processo che è iniziato subito, insomma, subito dopo la morte di Stefano, è iniziato, insomma, un processo appunto che riguarda sicuramente i carabinieri che sono imputati del suo assassinio, ma appunto come vi dicevo è tutta una questione che è ancora aperta e di cui tante realtà, anche associazioni si occupano. Una di queste è Alter Ego Fabbrica dei Diritti, abbiamo in diretta un compagno di questa associazione a cui diamo il buongiorno. Ci senti? Sì, ciao. Buongiorno a tutte, buongiorno. E tutti. Ciao. Ciao. Sì, vabbè, io mi presento, sono Riccardo Bucci, avvocato di Alter Ego Fabbrica dei Diritti. E, sì, sentivo anche parte della trasmissione riguardo proprio a tutto quello che esce fuori anche dal film, in riferimento ai problemi e a tutti gli incastri che si sono verificati nel caso di Stefano, perché il film ricostruisce benissimo proprio tutti quelli che sono stati i momenti più importanti, che sono stati poi ricostruiti anche dai verbali, quello che sicuramente da avvocato posso apprezzare del film, che non si è mai, ad esempio, sono rarissime le scene in cui Stefano viene rappresentato da solo, proprio perché si riprende tutto ciò che è uscito fuori dai verbali e dal processo, viene rappresentato, quindi ogni persona che si trovava in collegamento, connessione con Stefano, in realtà era la persona che poi hanno testimoniato. Quindi i fatti e la ricostruzione del film a livello proprio anche di ricostruzione processuale sono molto vicini a quanto poi dal primo processo di Stefano Cucchi è uscito fuori, che ha portato poi all'assoluzione delle guardie penitenziarie e dei medici, proprio perché diciamo al momento il cosiddetto Cucchi bis, che è il processo che è partito successivamente, perché ovviamente dal primo processo sono uscite fuori delle dichiarazioni testimoniali che andavano in contraddizione all'interno della ricostruzione poi di tutti i fatti che sono successi, e le famosissime ormai dichiarazioni di Casamassima, dal carabiniere che ha dichiarato di aver avuto notizie di quello che era successo, portano fondamentalmente a dare un valore enorme a livello proprio di ricostruzione processuale, quindi nel processo, a quella prima scena in cui Stefano viene portato nella stanza per il fotosegnalamento. Infatti anche nel film, non so se ti ricordi, si chiude quella porta e si blocca l'immagine con un silenzio che diventa devastante, soprattutto per chi poi ha seguito il processo, ecco. Eh sì, appunto all'interno del film appunto c'è anche questa scelta di non descrivere con le immagini quello che è stato poi il pestaggio di Stefano, ma appunto c'è questa entrata dentro questa stanza e poi da quel momento il film cambia completamente, no? Perché non abbiamo più... Cambia il registro, cambia la storia, ma è una storia che ancora è da scrivere. Perché? Perché il processo sta andando avanti, Casamassima, questo carabiniere che non era presente lì, ma ha dichiarato poi di aver avuto notizie dal maresciallo Mandolini, maresciallo invece della stazione dove è avvenuto, dove sono avvenute, è avvenuta questo fotosegnalamento, questa identificazione, racconta di dichiarazioni di Mandolini, che ha detto proprio che i suoi ragazzi l'hanno massacrato di botte un giovane. Da lì parte la ricostruzione che poi porta quattro carabinieri al banco degli imputati, una ricostruzione che poi nell'ultima udienza ha visto in un certo senso confermate delle stranezze. Ovviamente io parlo in termini non assoluti, perché diciamo è necessario che ci sia una sentenza del giudice, quindi che ci sia un accertamento di quello che è accaduto, ma sicuramente è stato portato nell'ultima udienza, proprio è stata fatta un'analisi del verbale di fotosegnalamento. Quando avviene il fotosegnalamento in questura, in caserma, nelle caserme, deve essere verbalizzato chi viene ovviamente fotosegnalato, identificato all'interno della struttura, e il registro di fotosegnalamento vede una cancellatura proprio sul nome di Stefano Cucchi, cosa che ovviamente da un punto di vista di procedura è decisamente illegittimo. Ogni persona che viene fotosegnalata all'interno della caserma deve essere ovviamente segnata all'interno di questo registro che è nella stanza, quindi questa cancellazione mediante l'utilizzo proprio del bianchetto, questa è un'altra cosa che sono piccoli dettagli ovviamente che sembrano ridicoli da un certo punto di vista, ma in realtà quel registro è un atto pubblico, quindi l'utilizzo del bianchetto per sbianchettare il nome di Stefano sicuramente è una procedura che fa venire dei dubbi che Stefano lì dentro non doveva, che il fatto che Stefano fosse entrato lì dentro non doveva essere registrato e non doveva uscire fuori. Sì, cosa che si vede anche dal film, comunque, che appunto mi confermerai anche tu che insomma hai seguito la questione, che è molto fedele poi a quelli che sono le carte, a quello che è insomma decisamente sì, rispettoso soprattutto anche di quello che è il processo in questo momento, perché ovviamente poi il film riporta fortunatamente a parlare una storia fondamentale oggi, perché è uno dei processi che effettivamente anche grazie al lavoro dell'avvocato Anselmo che sta difendendo la famiglia Cucchi si sta finalmente andando verso una direzione che è quella di portare alla luce delle evidenze talmente grandi di violazione delle procedure e anche attività illegittima da parte delle forze dell'ordine, che è importante sostenere in ogni modo. Per questo motivo il film racconta una storia che è una storia che segue esattamente quella che è la ricostruzione del processo, ma riporta proprio l'attenzione di tutti e di tutte su questa storia, la fa uscire fuori, anche fuori dai confini italiani, e poi raduna, ha la capacità di radunare 2000 persone alla Sapienza per vedere tutti insieme questo film e viverlo insieme, e quindi diventare consapevoli di quello che è stato. E la consapevolezza è uno degli strumenti, secondo me, in questo momento fondamentali per evitare che accadano queste storie, o se accadano, per denunciarle, perché ovviamente un altro elemento grandissimo che esce dal film è la difficoltà di Stefano di denunciare. Sì, infatti quello che ti sto dicendo dal film, appunto, che è parecchio fedele, esce fuori in diversi passaggi che sono sempre minuzie, però dove si vede che diversi luoghi di polizia o luoghi sanitari dove lui è passato si premuravano di scrivere che Stefano era lì da quell'ora in quel momento, perché vedendo lo stato in cui era, comunque tutti si premuravano di dire, sapevano benissimo tutti cosa era successo, e tutti si premuravano semplicemente di evitare di poter essere coinvolti in quello che è successo, ma non perché si accorgevano che questo fatto di Stefano fosse particolare, perché purtroppo mi immagino che sia una quotidianità, però sanno bene che, insomma, ogni tanto qualcuno o finisce male come è finito Stefano, o magari cerca di denunciare qualcuno, anche se poi sappiamo bene, ve l'abbiamo visto, insomma, in diversi fatti grandi anche di questo paese, come la scuola Diaz, altre questioni dove comunque sappiamo qual è l'atteggiamento dello Stato nei suoi stessi confronti, insomma. Però sì, la lotta insomma, comunque anche ad esempio sul caso di Ilaria Cucchi è sicuramente un esempio da questo punto di vista di tenacia e di voglia. Assolutamente sì, anche perché bisogna anche fare una valutazione. Vedendo il film ci sono state varie volte in cui una persona, chi lo sta vedendo, dice: ma perché non ha parlato, ma perché non lo ha detto? Sono proprio dei momenti poi magistralmente ricostruiti a livello proprio emotivo nel film. Beh, è importante sottolineare questa cosa, lavorando su queste situazioni è anche importante sottolineare come c'è un totale isolamento, una totale paura una volta subita una violenza da parte di forze dello Stato, ma non di altre persone, magari criminali, no, stiamo parlando della forza pubblica che agisce in questo modo. Chi subisce queste violenze si ritrova totalmente disarmato, con una paura incredibile di parlare, perché si sente totalmente accerchiato. C'è uno Stato che ti prende, sei in mano a uno Stato che ti massacra di botte. Quindi il discorso sul fatto perché lui ha difficoltà di parlare, perché non denuncia, perché fa quelle battute, in realtà è legato proprio a un aspetto psicologico che nasce ovviamente da chi subisce una violenza di questo tipo, che si sente da solo, che ha paura di mettere in mezzo i familiari, che ha paura di mettere in mezzo gli amici. Quando poi si sblocca la situazione, cioè quel passaggio con il suo vicino di cella che gli dice parla con l'avvocato, a quel punto si entra nell'assurdo del procedimento, in cui non viene mai avvertito l'avvocato, che effettivamente in quel caso avrebbe potuto fare una richiesta al pubblico ministero, al magistrato, per poter far vedere la famiglia, entrare la famiglia e essere lui parte di quella situazione. Ma c'è anche il passaggio legato al terrore che si genera nella persona che subisce un attacco da polizia, dalle forze pubbliche. Certo, in questo caso i carabinieri, sembrerebbe, va accertato ovviamente, ma a livello psicologico pensiamolo in questo modo. Sì, appunto, si vede anche all'inizio, quando durante la perquisizione, insomma, anche i genitori di Stefano, che sicuramente questo è un fatto che avranno anche riportato e che anche per quello sarà nel film, che si erano accertati, insomma, hanno chiesto se l'avvocato era stato sentito, ma come succede molto spesso per i ragazzi, che siano italiani, migranti, e vengono fermati per strada per questioni di questo tipo, insomma, c'è un livello di rispetto di quelli che sono i diritti di base che è completamente inesistente. Quindi, che è inesistente perché è una routine, l'hai definita bene tu prima, è una routine che spesso si verifica e che però a cui non si dà alcun peso, non si dà alcun peso da un punto di vista sia ovviamente giudiziario, e bisognerebbe qui intervenire soprattutto per informare su quelli che sono i diritti, per rendere più facile proprio comprendere quali sono i propri diritti davanti alle forze dell'ordine, e dall'altra parte da un punto di vista politico, perché è evidente che anche il Casa Massima, è quello che ha dovuto, e ti parlo del carabiniere che ha fatto quelle dichiarazioni, è stato trasferito perché era a rischio. Un carabiniere che parla diventa a rischio all'interno del sistema di polizia. Anche qui è evidente che c'è qualcosa di malato e che non va bene, che non funziona all'interno del sistema stesso delle forze di pubblica sicurezza. Sicuramente. Allora io volevo chiederti un paio di cose. Allora, intanto mi dicevi che giustamente, no, la proiezione del film alla Sapienza, ma insomma tutte le altre che ci sono state, sono stati momenti anche per, partendo da questa storia, dare una risposta collettiva, stare insieme, cercare appunto anche una forza collettiva, una solidarietà. E ci sarà nei prossimi giorni altre pagine di questa storia, ci saranno, no? Perché questo processo non è finito, quindi nel senso ci sarà, se non sbaglio, il 26 settembre l'inizio del Cookie Bis e la prima udienza a Piazzale Clodio, giusto? Il 27 alle 10, se non ricordo male. È evidente che inizierà la fase, diciamo, della difesa, quindi ci sono stati sentiti adesso i testimoni dell'accusa, chiamiamola, quindi del pubblico ministero e delle parti civili, quindi la stessa famiglia, che sono stati sentiti come testimoni. Adesso partirà la fase della difesa, quindi la difesa dei quattro carabinieri. È importante ovviamente continuare a dare seguito a questo lavoro collettivo, a questo momento di condivisione e di ripresa anche dell'attenzione su questa storia. Ed è importante, ecco, anche essere presenti, diciamo, l'invito che è stato fatto alla Sapienza l'altro giorno di essere presenti, di presentarsi, di organizzare un presidio, è qualcosa che è fondamentale sia per dare vicinanza alla famiglia, ma anche per far vedere che c'è una società civile, che c'è ci sono delle persone che conoscono la storia e vogliono vedere come va a finire e aspettano questa verità esattamente come la famiglia di Stefano. Sì. Quindi sì, l'invito ovviamente è di riuscire a dare continuità a quello che abbiamo iniziato, essere presenti lì per stare vicino alla famiglia, ma anche al tribunale. Sì, io insomma, cioè, nel senso, da questi microfoni sicuramente poi rilanceremo un appuntamento più preciso, sì. Quello che so nei prossimi giorni dovrebbe essere un po' più formalizzato, però insomma a maggior ragione che questo film ha avuto il merito di riaprire l'attenzione in maniera forte su questa questione, cerchiamo di non farla scemare e di dargli anche un seguito pratico, una possibilità anche di incontrarci, di organizzarci insieme e di riuscire anche magari a costruire una forza che ci permetta di provare a impedire che avvengano altre volte di nuovo queste cose, anche se purtroppo basta un attimo informarsi e tra le carceri non solo, insomma capitano spesso purtroppo storie di questo tipo e quindi insomma cerchiamo Stefano, di quello che è importante dire è che Stefano è un simbolo. È un simbolo che è diventato importante e rappresenta tante altre persone che i cui nomi spesso sono sconosciuti, i cui nomi sono sconosciuti non soltanto a chi si occupa, ecco, come ACAD, come noi, ACAD, l'Associazione contro gli Abusi in Divisa che con cui stiamo collaborando, ma sono storie che magari non sono neanche mai uscite, perché non c'è stato nessuno che le ha denunciate, non c'è stato nessuno che ha intercettato determinate violazioni. Quindi Stefano in questo momento rappresenta esattamente il simbolo di una parte di popolazione che una parte che spesso combacia con gli ultimi, con chi è vittima di un'emarginazione sociale, tossicodipendenti, poveri, sui quali avvengono in maniera decisamente più importante queste forme di abusi. Noi, come abbiamo anche detto alla Sapienza, insieme ad ACAD, stiamo per esempio adesso lavorando proprio in riferimento a quello che ti dicevo sulla creare coscienza, creare consapevolezza e informazione. Stiamo lavorando su un vademecum legale contro gli abusi in divisa. Sarà un vademecum che si rivolgerà a tutti quanti, a tutti i cittadini, andrà quindi a raccontare e spiegare quali sono i diritti dei cittadini nel momento che incontrano le forze dell'ordine, nel momento in cui entrano nel sistema giudiziario, sotto ogni aspetto. Partiremo quindi da quelle che sono le attività anche di militanza e di attivismo politico durante le manifestazioni, i cortei, le occupazioni, la vita, la quotidianità, ad esempio anche l'attacchinaggio, i volantinaggi, quindi tutte partendo proprio da quelle che sono le attività ordinarie, come ad esempio andare, stare in mezzo alla strada con la macchina ed essere fermati, e sapere quali diritti si hanno e quali sono gli obblighi, i doveri e i limiti della forza di pubblica sicurezza. Parleremo quindi in maniera, prendendo proprio pezzi della vita reale e cercando di spiegare quanto è importante essere consapevoli e sapere quali sono i propri diritti, in modo da poter comprendere se c'è, o avere soltanto il sentore che ci sia una violazione da parte delle forze dell'ordine. E come dicevo l'altra sera, un vademecum che poi forse potrebbe anche essere utile per loro, ogni tanto ricordargli quali sono i loro limiti, non è mai un male, ecco. Chissà se ne hanno voglia, però insomma, sicuramente chissà se ne hanno voglia, però sicuramente potrà, è importante insomma ricordare queste cose. Magari pensavo che comunque quando l'avrete completato, sicuramente qua in radio potremmo presentarlo insieme e dargli, assolutamente dargli anche un sì, po' di assolutamente sì, maggiore. Uscirà il 15 novembre, sarà ovviamente un lavoro che verrà reso pubblico prima online, quindi pubblico e gratuito ovviamente. Sarà possibile quindi consultarlo online, poi inizieremo ecco, a presentarlo a livello nazionale per vedere, per parlarne, per farlo girare, e quindi ovviamente anche alle radio sarebbe assolutamente sensato vederci e parlarne, quindi molto molto volentieri. Bene, comunque insomma ci teniamoci in contatto per questa cosa, comunque fino al presidio e speriamo oltre, insomma cerchiamo di mantenere anche un livello di informazione su quello che sta succedendo per appunto andare anche oltre il film, che sicuramente ha un valore grande, però insomma poi quotidianamente c'è tanto da fare su questo tema e per fortuna ci sono ovviamente in realtà, sì, voi che lo fanno. Quello che ci possiamo sentire quando volete, il nostro numero lo avete. L'ultima cosa vi dico, che questo vademecum nasce con l'idea proprio di partire dal basso, quindi come alter ego fabbrica dei diritti stiamo cercando, ecco, chiunque avesse voglia di partecipare, esperto, non solo esperti di diritto ma anche appassionati di questa parte del diritto. Noi siamo un'associazione che si compone sia di avvocati ma anche di giuristi, quindi di laureati in giurisprudenza o anche studenti, per esempio universitari da giurisprudenza, da psicologia, da scienze politiche, quindi chiunque volesse partecipare alle nostre attività e può contattarci su Facebook anche tramite voi, tramite Sapienza Clandestina, perché il lavoro di questo vademecum è un lavoro molto grande, sono tantissime le questioni da raccontare, da narrare. Ovviamente uscirà il 15 novembre ma continueremo ad aggiornarlo costantemente, e quindi l'invito ovviamente che faccio proprio a chi volesse partecipare, prendere parte e generare un'informazione più completa possibile è benvenuto. Rilanciamo insomma questo appello, sicuramente è una cosa importante, e niente, insomma io ti ringrazio, se non abbiamo nient'altro da aggiungere per insomma tutte le informazioni che hai aggiunto all'approfondimento di questa mattina, e che continua comunque ancora un pochino, e poi niente, insomma sicuramente tra domani e dopodomani cerchiamo di, da questi microfoni, di dare un appuntamento preciso per l'udienza del Cookie Bis. Assolutamente sì, e ci vedremo ovviamente tutti quanti lì. Sì, quindi ci vediamo in piazza. Un ringraziamento a voi, al lavoro che state facendo e all'informazione, alla libera informazione che serve veramente tanto in questo periodo. Grazie. Allora, grazie. Ci sentiamo presto e grazie ancora di essere stato qua in diretta con noi. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Buongiorno Stefano, come stai? Male, sei? Sono la dottoressa di turno. Mi racconti cosa è successo? C'è scritto sulla cartella. L'ho letta, però vorrei sentirlo da te. Qui c'è scritto che hai due fratture vertebrali, lo sai? Secondo te? Guarda che è una cosa seria. Devi stare il più fermo possibile perché non sappiamo se è stabile. Grazie, andavo accappato. La causa è una caduta, giusto? Giusto. Hai dolore? Ho dolore. Affanno? No. Dolore toracico? No. Dolore alla testa? No. Perché stai sdraiato a pancia in sotto? Perché mi fa meno male. Fammi vedere questi occhi. Oh, lasciatemi stare. Stefano, ho bisogno di rendermi conto della situazione. Cammina in un pisciac la situazione, andate via. Allora, fagli rifare le lastre e scrivi che il paziente ha rifiuto la visita. Sì. Giovanni, chi ci dice che quel livido a Stefano gli ha fatti un detenuto? Tu sei sicuro? No, non sono sicuro di niente. E perché l'hai detto? Perché mi sembrava la cosa più probabile. Ma lui la prima notte ha dormito in carcere? No, ha dormito nella stazione dei carabinieri. E allora sono stati loro? A maggior ragione, meglio così, no? Se c'è avuto problemi con carabinieri, adesso in ospedale non incontra più. Tu al processo li hai visti i carabinieri, perché non hai chiesto niente? Dovevi dirlo. Chiesto, donna Rita, non mi piace. Ma lascia stare il tono, rispondimi. Ma te pare che andavo a lasciare accuse così pesanti mentre Stefano stava ancora a mano loro? Ti sembra una cosa sensata da fare a te? E allora uno che fa sta zitto, perché manco Stefano ha detto niente. Era pensato che era meglio così. Rita, la parola tua contro quella di un pubblico ufficiale non è una passeggiata. Ma noi abbiamo sempre avuto fiducia nella legge. Diciamo fiducia pure che Stefano fosse uscito dalla droga. Guarda come stiamo, eh. Ma che devo fare secondo te? Alzava la mano, signor giudice, ha visto? Mio figlio c'ha lividi in faccia, gli può chiedere se sono stati i carabinieri. Rita, io sono stanco, ho più di 60 anni, non sono più l'uomo che usciva alle 3 di notte per andare a recuperare il figlio strafatto chissà dove. Stefano c'ha 31 anni, è un uomo. Noi che possiamo fare? Lo possiamo aiutare, lo possiamo consigliare. Ma adesso a tirarsi fuori dai guai, ci deve pensare da solo. Questo era un altro estratto, altri due estratti dal film, e appunto, cioè, continua a raccontare, a essere secondo me descritta molto bene, questo senso di impotenza, di impossibilità appunto di raccontare quello che è successo. Addirittura i genitori di Stefano non raccontano come per loro gli sembrava impossibile riuscire, anche nei momenti in cui hanno incontrato Stefano con gli stessi carabinieri che lo avevano fra le mani, fosse impossibile appunto denunciare quello che è successo. A maggior ragione, insomma, dato che è evidente che questa è la situazione che viviamo, è veramente importante provare a essere in tanti, a sostenerci, a non lasciarci soli in queste situazioni. E come diceva Riccardo nella corrispondenza di prima, sarà molto importante cercare di essere in tanti al presidio che si sta provando ad organizzare a Piazzale Clodio durante appunto l'udienza del Cookie Bis. Per insomma concludere questo approfondimento, appunto anche oggi, aprendo le principali testate di questo paese, comunque si continua a parlare di questo film, si parla ancora delle proiezioni di questo film, quindi delle proiezioni pubbliche, delle proiezioni che hanno visto partecipare migliaia di persone. Sicuramente sono qualcosa che non ha lasciato indifferente, e speriamo appunto che da questo si riesca su questo tema, grazie anche a queste mobilitazioni sociali che si sono date, a riportare un po' d'attenzione, un po' di forza appunto a quella che è una battaglia che continua. Ora vi lascio a un ultimo estratto di questo film e poi cerco di darvi anche uno sguardo nella prossima mezz'ora sulle lotte nel mondo della sanità qua a Roma e delle insomma dei momenti di incontro che ci saranno rispetto all'organizzazione di queste lotte. Buongiorno, sono Cucchi Stefano, nato a Roma il 1 ottobre 1978. Sì. Sì, 78, mi scusi, non riesco a parlare bene. Lavora? Lavoro con mio padre. Sì. È coniugato, ha figli? No, sono celibe. Ha precedenti? Sì, non per droga. Però ho altri precedenti. Se verrà scarcerato, dove vuole che arrivino gli atti di questo processo? Presso l'avvocato o presso un altro indirizzo? Presso il mio nuovo avvocato. Presso l'avvocato. Mio nuovo, sì, vorrei nominarlo come avvocato di parte. Di fiducia. Gentilmente, sì, scusi. Quindi presso l'avvocato qui presente, che nomino ora come avvocato di fiducia. si dichiara innocente, ovvero ammettere a debito? Io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio, mi dichiaro invece colpevole per quanto riguarda la detenzione, per uso personale.